Buonasera e bentornati a questa nuova diretta di Mighty FM, una ogni settimana adesso piano piano, insomma stiamo riprendendo, non ce la possiamo fare, però una cosa che ho detto l'altra volta, già questa undicesima stagione era iniziata un po' zoppicante, quindi voglio dire, il fatto che sia arrivata una pandemia ci stava assolutamente. Adesso abbiamo ripreso le nostre trasmissioni e per indicare anche qual è il range musicale di Mighty FM molto molto ampio, dopo Douglas Dare dell'altra settimana, diciamo che all'altra estremità si può trovare un nome come quello di Rosa Terenzi, ovvero l'alias di Katie Campbell, nata a Perth in Australia, West Australia, che il 17 aprile di quest'anno ha pubblicato per l'etichetta canadese di Vancouver Planet Euphoric il suo debutto sulla lunga distanza dal titolo Modern Bliss. E come sempre iniziamo con il pezzo di apertura del disco che si chiama Django in the City. Essendo un disco di musica insomma elettronica, club culture, che comunque contiene, ne parleremo in abbondanza, tanti tanti generi, ho pensato ma non c'è tantissimo da dire, da commentare, non ci sono testi da raccontare, non ci sono tante storie e quindi mi sono addirittura esposta tanto da scrivere la puntata di Mighty FM meno parlata di sempre. E invece parleremo come sempre un bel po', perché soprattutto oggi pomeriggio abbiamo scoperto un sacco di cose di questa artista che non conoscevamo ancora. Ma intanto iniziamo a parlare di questo primo pezzo, Jungle in the City, che è un primo pezzo che fa anche un omaggio alle proprie radici ed origini, in quanto The Jungle in the City era il titolo di un disco del 98 di un gruppo electronic dub di Perth, di cui faceva parte il papà di Katie come percussionista. E anche con un inizio un po' così, da un tempo mi ricorda anche un po', con le dovute differenze, Finn di John Talabot, ma a parte ciò. Per esempio la recensione di Pitchfork di questo disco dice che questo momento è il più blissful, è il più beato, il più estatico dell'album. We'll be right back. invece la recensione Pop Matters di questo primo pezzo dice: le percussioni liquide come se fossero state appunto messe sott'acqua, un suono duro e delicato insieme come in tutto il disco, in cui anche momenti più aggressivi sono anche calmanti e rassicuranti. Quindi ci si chiede: ma questa musica dovrebbe cullarti o farti venire voglia di ballare? Maggior parte delle volte in questo disco questi momenti musicali fanno tutti e due gli effetti. E finisce questa intro al disco e diceva appunto le cose che abbiamo scoperto oggi, che appunto, essendo comunque cresciuta in un household, in una casa dove comunque il papà, oltre a fare l'avvocato, aveva anche questa attività come musicista e un piccolo studio, Katie a 9 anni fa questo pezzo. Listen up, dudes. Clap to the crap rap. Oh yeah, clap to the crap rap. Oh yeah, clap to the crap rap. Oh yeah. Bring it down now. Woo! Clap to the crap rap. Cioè, lei ha 9 anni con lo pseudonimo di Kay, staccato T con la doppia I E. Anche la sua pagina Bandcamp, dove potete trovare questo pezzo, Clap to the Crap Rap, dimostrando appunto che un precoce appunto senso dell'umorismo, dell'ironia, cioè battete le mani o batti mani su questo rap che fa cagare. E oltre a questo pezzo c'è anche appunto il suo remix fatto dal papà, quindi con il nome della band, che si chiamavano Beat Down, un remix in versione trance. Appunto, Katie continua a fare musica in modo un po' più, diciamo, serio. Tutta la durata degli studi superiori, dai 13 ai 17 anni, continua a sperimentare, suona la chitarra, la batteria, il pianoforte, canta molto, anche se dice: la mia voce non mi piace, però insomma era comunque un modo per esprimermi musicalmente, esprimere una propria musicalità. E a partire dal più o meno 2014 comincia a produrre i suoi pezzi di electropop un po' sghembo con un altro pseudonimo, quello di Cat Lips. E fa uscire un EP di 5 pezzi nel 2015, dal titolo Casual EP, e poi sempre lo stesso anno questa traccia dal titolo Silver Smoke, che fa anche diversi video, si possono trovare su YouTube. E addirittura in questa veste partecipa a un Boiler Room di Earth, apre per Black Madonna nel 2016, e infatti il suo primo, diciamo, DJ gig lo fa con questo pseudonimo di Cat Lips. Comunque l'attività di DJ è sempre stata secondaria. È una cosa che ha iniziato a fare molto dopo. Comunque molto interessante anche questo pezzo, Silver Smoke. E a fine 2017, cioè a quel momento, lei tira una riga e assume un'altra identità, ovvero quella del nuovo, ulteriore e attuale pseudonimo, quello di Rosa Terenzi. Già nel 2016 nel frattempo finisce le superiori, tra l'altro faceva parte dell'orchestra jazz della scuola con cui hanno anche partecipato al Monterey Jazz Festival, e inizia a frequentare il WAAPA, ovvero Western Australia Academy of the Performing Arts, che poi i genitori l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata. E quindi lei si chiedeva: cosa faccio alle superiori? Studio legge o faccio musica? E il padre ha detto: no, fai musica, che già l'avvocato lo faccio io. Quindi abbiamo spulciato il suo ricchissimo SoundCloud e abbiamo trovato che la prima traccia a nome Rosa Terenzi è del 25 aprile 2016, con un pezzo che si chiamava Dread and Freedom più un DJ mix, il Rosa's Raw Floor Mix, e nel dicembre 2017 esce il primo EP, DOG EP, da cui stiamo ascoltando due pezzi, Right Zone, The Right Zone più Yeah Yeah Yeah. Insomma, le idee erano molto chiare sulla direzione musicale intrapresa dal progetto Rosa Terenzi dopo tutti questi anni passati a sperimentare e a cercare di trovare appunto un proprio stile, sia a livello di produzione musicale che anche a livello di DJing. We'll be right back. Questa è la seconda traccia. Yeah, yeah, yeah. Questo EP esce per la Good Company Records, ovvero l'etichetta del club di Melbourne, dove lei inizia subito a suonare ogni weekend quando appunto si trasferisce da Perth a Melbourne. Proprio la mecca della club scene australiana, il Good Company. Ma siccome questi pezzi erano già pronti da un anno, perché l'uscita è stata rimandata di un anno e esce dicembre 2017, lei aveva prodotto talmente tanta musica, perché è veramente super prolifica, che il 2018 è una sequela di uscite praticamente una dietro un'altra di mix per radio, per etichette, di remix, di collaborazioni. E questo primo debutto come Rosa Terenzi ci è veramente piaciuto, ma veramente tutta la sua produzione. Ma siamo tornati a Modern Bliss, l'album di cui parliamo principalmente questa sera, insieme a tutta la carriera di Rosa Terenzi. Questa è la seconda traccia, si chiama Elevate. Sì, la sua musica è stata definita Outsider House, appunto una musica non creata tanto per il dance floor. Lei dice che non compone la sua musica avendo in testa la ballabilità in un locale, vabbè, concetto che adesso insomma dovremo anche un po' rivedere, quindi va benissimo, perché è proprio una musica che si può ballare dentro di sé o a maggior ragione nella propria casa, nella propria cameretta. Il suo processo di composizione è fare musica che all'ascoltatore stimoli comunque diverse parti della mente, del cervello. Infatti lei dice che fa fatica a descrivere che musica fa quando la gente glielo chiede, perché è più la creazione di un'atmosfera, di un mood attraverso i suoni. Poi anche un elemento fondamentale nelle sue composizioni, dice, deve esserci sempre un elemento di gioco, di giocosità, playfulness, di divertimento, e un contrasto tra dei suoni ricchi, pieni di calore, e invece una certa durezza tagliente, metallica. E appunto la sfida è far funzionare insieme queste cose, e anche un'altra sua caratteristica è affrontare e padroneggiare tanti generi diversi come in questo album. Se i pezzi sono di genere molto vario, l'insieme è coerente, è un disco vario, accattivante, che è tenuto insieme da uno stile molto fresco che lega tutto. Finisce Elevate, seconda traccia di Modern Bliss. Comunque già a gennaio 2018 compare una sua traccia, Oxygen Stomp, in una compilation per la Pelvis Records, emanazione discografica di Pelvis, un collettivo che si occupa di serata, musica, cinema e design, attraverso parte abbigliamento e altri progetti, sempre parte della ricca scena musicale australiana, in questo caso Sydney. E a febbraio 2018 esce il suo secondo EP, quindi già a 2 mesi di distanza. Ufficialmente si chiama MWAH, MWAH, sarebbe come l'equivalente di smack, insomma lo schiocco di un bacio. E come caratteristica, l'abbiamo detto tante volte nelle nostre trasmissioni, degli artisti, di producer di musica elettronica, clubbing eccetera, la caratteristica principale è essere dei nomadi a livello di etichette, perché comunque sono tutti contatti, collaborazioni, amici, quasi ogni producer e DJ ha la propria etichetta, gira la voce, e quindi viene chiesto, o appunto per contatti personali, oppure le piccole etichette chiedono un contributo a degli artisti, a dei DJ, dei producer che apprezzano. E già questa seconda release esce per la Kalahari Oyster Cult, di base a Bruxelles e Amsterdam, quindi già dall'Australia si fa un salto in Europa. E questo pezzo si chiama Rare High. C'è una qualità liquida. È e si sente anche la sua grande passione per la ritmica, sempre piuttosto complessa, non banale. Ma magari parliamo anche dell'origine di questo alias. Allora, Rosa potrebbe essere stato ispirato da un'insegna di salone estetista sloveno-croato, come da foto a corredo di una delle sue prime tracce nel 2017 su SoundCloud, il salone Rosa. E poi Terenzi, la dottoressa Fiorella Terenzi, astrofisica italiana, e vergogna, non c'è neanche una pagina di Wikipedia in italiano dedicata a lei. Astrofisica italiana, ma anche musicista, ha frequentato a Milano anche composizione e opera al Conservatorio Verdi, si è laureata in fisica a Milano, vive negli Stati Uniti, in Florida, e nel 1991 pubblicò, quindi anche oltre ad essere autrice, scrittrice, vedete, gira il mondo facendo delle conferenze, anche musicista, perché appunto nel 91 pubblicò Music from the Galaxies, ovvero registrazioni create traducendo in musica e in suono le onde radio, quella che lei definisce l'astronomia acustica. E dopo quel primo lavoro, Music from the Galaxies, abbiamo postato oggi pomeriggio un breve servizio della CNN sulla sua attività, ha pubblicato anche altri dischi come The Gate to the Mind's Eye con Thomas Dolby nel 94, e poi Beyond Life, Mercury Records Dance Trance CD e Video Tribute dedicato a Timothy Leary, lui, psicologo, psicanalista, il padre più grande advocate delle droghe psichedeliche, dell'LSD, definita da Time Magazine Fiorella Terenzi un incrocio tra l'astrofisico divulgatore scientifico Carl Sagan e Madonna. Le cui lezioni e conferenze sono basate sull'unione di scienza e arte, di conoscenza ed emozione, infatti poi è la prima persona ad essere sia membro dell'American Astronomical Society che della National Academy of Recording Artists and Science, ovvero l'associazione dei Grammys. E quindi questa fascinazione per questo personaggio, Katie l'ha subita, anche perché c'è sempre, si sente un suono extraterrestre, dei suoni alieni, dei blip spaziali, un'atmosfera un po' psichedelica. E infatti in un'intervista Katie dice: mi piace il suo vibe di Fiorella Terenzi, per questo le ho rubato il nome, perché volevo avere un collegamento, un riferimento da qualche parte a questo personaggio, che comunque è stata una pioniera per tante cose a livello scientifico, ma anche a livello elettronico, perché sono state tante che le musiciste pioniere avanguardistiche nell'ambito della musica elettronica. Quest'altro pezzo molto figo, da un tempo che stiamo ascoltando, viene da un'altra release del 2018, ce ne sono state molte, molte, numerose, che è un EP a doppia firma, quello di Rosa Terenzi insieme a DJ Zosi, anche questo uno pseudonimo di Sophie Sweetland, che esiste anche un altro pseudonimo, che è quello di Tiffany, che è la fondatrice dell'etichetta Planet Euphoric di Vancouver. Quindi nel 2018 la inaugurano con questa prima release, l'uscita numero uno dell'etichetta, con questo EP che appunto si chiama semplicemente Planet Euphoric, e abbiamo unito due tracce di questo EP. La prima era World Off, questa è Half Moon Bay. E esce a marzo, cioè proprio uno dietro un altro. Questa è stata la prima collaborazione, ma si sono ritrovate in continuazione sia poi con altre release di cui parleremo, o comunque a remixare un pezzo tutte e due in EP di altri artisti, e sarà per questo legame speciale che questo primo album Modern Bliss, comunque sempre pubblicato a livello fisico nel formato di doppio 12 pollici, quindi doppio vinile, quindi come un EP in forma estesa, l'extended dell'extended, sarà per questo che Modern Bliss è uscito per la Planet Euphoric di Sophie Switland. Ed arriviamo appunto alla terza traccia, che è anche la title track, Modern Bliss, che vede la partecipazione di una cantante e producer di Barcellona, Ivi Barcacati. E che inizia così. Cioè, forse non inizia proprio così, perché ovviamente i pezzi sono un po' tutti editati. Tornando a Pop Matters, che diceva che c'è questo connubio di, insomma, beat bassi, duri, e invece un'atmosfera più delicata che ti calma e ti fa venire voglia di ballare insieme. Un esempio appunto questa title track, che unisce il techno beat di 4/4 a questa voce mantra. Dove Ivi Barcacati dice clarity, intention. Direction. esattamente dove devo essere, i miei pensieri creano la realtà. Questo è il mantra che viene ripetuto. Questo pezzo, la recensione di Pitchfork, che ha dato a questo album un dignitoso 7, dice che c'è una struttura floaty, così galleggiante, una struttura techno-trance che ricorda un pezzo di Paul Van Dyk degli anni 90, un'epoca in cui appunto i pezzi avevano sempre una voce che dicevano, ripetevano queste frasi così di self-empowerment, che era un classico appunto dei pezzi trance e della progressive house. E colgo l'occasione per salutare la bionda Johnny e i fedeli che sono all'ascolto, e li devo salutare, li voglio salutare, certo non è un piacere, non è un'estorsione. E nel 2018 continuano ad uscire EP uno dietro l'altro, un periodo in cui comunque il lavoro da producer, il lavoro da DJ era anche unito ad un lavoro part time, cui lei praticamente faceva tutta la tabella di marcia, programmava la consegna dei camion di frutta e verdura per i vari centri di distribuzione e supermercati. Perché in un'intervista un lunghissimo articolo speciale di Resident Advisor dell'anno scorso, lei dice: sempre voluto avere un lavoro perché non mi piace magari dover accettare degli ingaggi come DJ in situazioni magari che non mi interessano, perché dopo, insomma, alla lunga queste cose dopo ti fanno male, ecco. Ma anche dal Nestre Bial Friul ci stanno ascoltando Alice e Sabri. Sì, il mio accento era un po' più da Carnia. E domani uso privato dello spazio pubblico, ricongiungimento familiare speciale. Quindi un EP al mese. Siamo arrivati all'aprile 2018 per la Voyage Recordings di Melbourne, a riprova insomma della vivacità della scena musicale locale. Esce un altro EP, Weakest Link, tre pezzi più remix della title track fatto proprio da Di Tiffany, ovvero DJ Zosie, ovvero Sophie Sweetland, ovvero Planet Euphoric, da cui ci stiamo ascoltando Lily's Lounge. Questi suoni un po' acquatici, un po' spaziali. Poi nello stesso periodo appare un suo remix in un EP di un artista, Dylan Chase, nati Caffeine o Caffeine Worldwide. Il 1 agosto 2018, ospite di Moxie, che abbiamo conosciuto e ascoltato a Robot 2019, nel suo radio show su NTS, quindi un notevole aumento di visibilità, perché poi quindi è iniziato anche i tour in Europa e Nord America. E da un effetto acquatico ad un altro. E a Moxie dice: sì, avevo così tanta musica pronta da tanto tempo, adesso finalmente può uscire, o meglio, sono molto contenta che le cose comincino ad uscire, perché avevo già tanta musica pronta da un sacco di tempo. E adesso si è messo tutto in moto e le annunciava che sarebbero uscite altre cose nei prossimi mesi. E infatti a fine agosto 2018 esce un altro EP, Mood, l'etichetta era Salt Mines di Berlino, ma Aussie Made, ovvero fondata da degli australiani della scena di Melbourne e Sydney. E questo pezzo è tratto appunto da Mood EP, si chiama Double Reflection. We'll be right back. e durante la trasmissione con Moxie, prima di mandare il suo DJ mix fatto apposta per NTS, racconta di quanto sia grande la comunità di donne DJ che sono presenti, almeno una nel line up di ogni serata, perché c'è molta scelta. Ha del 50% e 50% presenza maschile e femminile, cosa rara come sappiamo. E poi racconta dei suoi inizi musicali, della produzione di musica elettronica a partire da 17-18 anni, lo studio all'università di composizione e tecnologia musicale, il suo amore per l'elettronica sperimentale, Square Pusher, Apex Twin, Venetian Snare, insomma cose non leggerine. E racconta del suo inizio come rapper novenne e poi il passaggio da Cat Lips a Rosa Terenzi. Cioè, sono fighi questi pezzi o no? Poi con il progetto Rosa Terenzi c'è un affinamento, dopo anni di ricerca e sperimentazione, l'affinamento del proprio stile, sia come DJ che come producer. E Moxie le dice sì, nella musica che fai è come un breakbeat melodico che ha un po' questo sentimento un po' nostalgico, ma non vecchio, cioè un nostalgico della scena rave, un suono attuale però appunto con un'influenza del passato. E infatti dichiara una grandissima influenza ai primi anni 90, che è la musica che ama ascoltare e ballare, e che poi unisce ad altri stili e generi che stranamente funzionano insieme, però appunto grazie a molta sperimentazione, molto tempo e molta fatica. E siamo tornati a Modern Bliss, questa è la quarta traccia, si chiama Yo-Yo. Ecco, questo potrebbe essere il pezzo un po' più breakbeat. Dice questo pezzo Yo-Yo è uno dei pezzi più robusti. Con queste stabs, queste note così acute, che si usa questo termine, è difficile tradurlo, poi i termini che usano la definizione dei suoni della musica da club è impossibile, tipo stabs, come fossero delle pugnalate, come delle fitte. Queste bright melodic stabs che elevano la canzone ad un livello proprio euforico. We'll be right back. E la recensione invece di Resident Advisor relativamente a questo aspetto di beatitudine, di leggerezza, di luminosità, di euforia, dice che c'è proprio in quest'album un'avversione nei confronti dell'oscurità. E al primo ascolto io mi ero appuntata quattro parole, quattro aggettivi. Che erano liquido, luminoso, eccentrico, organico. E siamo ancora al 2018 che procede in maniera trionfale, tra l'altro per 3 mesi si vede che dopo non ce l'ha fatta più, non ha avuto più tempo, ma l'aveva annunciato in un'intervista, ha condotto un suo radio show per la Skylab Radio per 3 mesi nell'autunno, si chiamava Designer Loops, dove si è sempre ospitato del female producer, perché era appunto il suo obiettivo dichiarato, dare voce alle producer donne. Poi in autunno pubblica un remix a 4 mani, sempre con Di Tiffany, per la pubblicazione di MIC, Music Inspired Change, un'etichetta collettivo londinese. Poi esce uno split single, cioè un pezzo per uno, insieme a Sleep D, un duo di producer australiani, Corey Kikos e Marius Siawish, sempre di Melbourne, e il pezzo di Rosa Terenzi che stiamo ascoltando si chiama Paranoia on Tap, cioè paranoia alla spina. L'ordine degli aggettivi, adesso me lo ricorderà, liquido, organico, luminoso, eccentrico. Io personalmente, la mia dichiarata ignoranza, ho letto questo nome la prima volta nella lineup del Primavera Sound di Porto dell'anno scorso, e infatti in occasione di una delle 2 puntate dedicate a quell'evento, come sempre, scelsi una traccia, La cosa interessante è che non ho assolutamente memoria se poi l'ho vista suonare o no. Potrebbe essere che si accavallava con qualcosa di imperdibile, potrebbe essere che ha dato forfè all'ultimo, chissà. E forse questo è il pezzo un po' più scuro della sua produzione, visto che appunto è un pezzo dedicato alla paranoia. E questo split single, abbiamo detto, era in coppia con il duo Sleep D, che anche loro, esattamente un mese prima dell'uscita di Modern Bliss, ovvero nel marzo di quest'anno, hanno pubblicato sempre per la Planet Euphoric un nuovo EP dal titolo Smoke Haze, cioè l'annebbiamento del fumo, la foschia del fumo. Un EP di 4 pezzi e siccome non sapevamo scegliere li abbiamo mixati tutti in un'unica traccia. E direi che questa ce la possiamo anche ballare senza dire più niente. Le tracce sono Freezer, Green Pond, King Tide e Bugger. Solo una nota per dire che anche qui si sentono un po' dei suoni anni 90. E anzi aggiungerò che gli australiani sono veramente un mondo a parte. Per qualsiasi tipo di musica che facciano, a parte avere questo penchant per la psichedelia, ovviamente se fanno musica elettronica non può non essere trance, sognante, spaziale, extraterrestre, eccetera. questa è l'ultima traccia delle quattro mixate casalingamente, come dico sempre io, senza neanche preascolto e cuffia, così alla va che la va ben, ma mi pare. Questo EP degli Sleep D, che come dicevo spesso gli stessi DJ producer si fanno la loro piccola etichetta, tanto non costa particolarmente, insomma. E infatti lo split single con Kerry Campbell, ovvero Rosa Terenzi, uscì per la Butter Sessions, la loro etichetta, che era una delle diverse realtà di Melbourne, insieme alla Voyage Recordings che abbiamo nominato prima. Infatti lei si dispiace un po'. Dice, ci sono un sacco di cose fighe che succedono in Australia, però solo poche persone se ne accorgono. Poi soprattutto quando parla di Perth, che dice che è proprio la città più isolata del mondo, viene spesso definita così. E anzi dice che per i giovani di Perth è più economico andarsene a Bali che andare a Melbourne. Ma siamo tornati con un banger che ho trovato, che c'è proprio la definizione ufficiale, traduzione dei dizionari ufficiali: banger è pezzone, e questo pezzone si chiama That Track, appunto quel pezzo, quella traccia, tra parentesi Rewired Mix, sempre da Modern Bliss. È veramente uno dei pezzi migliori. E Pitchfork dice, uno dei rari casi in cui Rosa aderisce allo standard classico dei quattro quarti. Sempre Pitchfork dice, la sua melodia sinuosa e questo refrain vocale così vivace, questa house pulsante, si sbarazza della nostalgia del rave, optando invece per qualcosa più vicina ai suoni più vivaci delle etichette di Chicago, le più classiche come la Dance Mania. E dice, forse è una produzione più semplice, più regolare, però una delle più efficaci, perché comunque la produzione di Rosa è sempre molto efficace. Questo è stato uno dei primi che è stato diffuso in anticipazione dell'uscita dell'album, il 1 aprile di quest'anno, ovviamente l'album è uscito il 17, in anteprima su Mixmag. Appunto un album dove ogni traccia è diversa. Elettropulsante, pezzoni, progressive house, ambient, IDM, techno, rave, acid, trance breaks. e finisce That Track Rewired Mix, e continuiamo a scorrere la prolificissima produzione discografica perché tipo a distanza di un paio di giorni nella paranoia alla spina di qui sopra esce un altro split EP, ovvero un pezzo per uno, e con chi? Con dei Tiffany, ovvero DJ Sosi, ovvero Sophie Sweetland. Vengono chiamate per fare da madrine per la prima release della neonata etichetta Oscillate Tracks, un'etichetta nata dalle omonime serate berlinesi che esiste, questa serata berlinese Oscillate, dal 2014. E infatti il titolo di questa release è semplicemente Oscillate Tracks 001, as simple as that. Questo che stiamo ascoltando è il contributo di Rosa Terenzi, si chiama Electronic, e l'anteprima di questo pezzo è stata data a DJ Mag, giusto per dire come nel tempo comunque la visibilità, l'esposizione e l'apprezzamento dei media specializzati stesse crescendo. e non me ne sono neanche accorta, neanche io, ma siamo arrivati quasi alla fine di questa traccia, che in realtà vede Electronic ma anche unito insieme il contributo di The Tiffany, ovvero Spirit Alien. A meno che non mi sia sfuggito qualcosa. E finisce metaforicamente il 2018, un anno ricchissimo, fortunatissimo per Rosa Terenzi. Dicevamo prima della trasmissione radiofonica Designer Loops, che appunto mi risulta che l'abbia fatta solo 3 volte e che era dedicata alle musiciste elettroniche, sia le pioniere che quelle contemporanee. Quindi musica sperimentale del passato e del presente, elettronica fatta da donne, oppure gender non conforming artist, e a questo punto ci possiamo mettere a buon diritto Wendy Carlos, ovvero l'autrice, nel momento in cui fece la transizione, autrice della colonna sonora di Arancia Meccanica, quindi l'Inno alla Gioia in versione elettronica che noi tanto amiamo, nostra prima sigla. E lei in questo feature di Resident Advisor molto molto lungo dell'anno scorso dice: senti le persone che si lamentano di come non ci sia abbastanza musica fatta dalle donne, che non è vero, è che non hai guardato bene, non hai cercato abbastanza. Infatti nomina per presente Catherine Aurelia Smith, Susan Chani, e a me era venuta in mente Delia Derbyshire del BBC Radiophonic Workshop e Daphne Oram. E siamo arrivati al 2019, che si apre con un DJ mix da un tempo, comunque invernale per Rinse FM, il primo di 4, uno ogni mese. Poi un remix per un'altra release della Calario Oyster Cult, l'etichetta del suo secondo EP, Moi. E a inizio di marzo un gran colpo messo a segno, esce il Let's Ride EP per la illustrissima etichetta di Amsterdam Deckmantel, e nella puntata di Mate FM dedicata al nostro Primavera Sound scegliemmo uno dei 4 pezzi contenuto in quell'EP, era Bricks, ma invece quello che stiamo ascoltando adesso è un'altra traccia del Let's Ride EP, si chiama Open Me. Sembra quasi di sentire Pump Up the Volume in sottofondo. Ovviamente no, ma la mente riconosce quello che già conosce. We'll be right back. quindi EP per la Deckmantel, etichetta per cui incidono Juju & Jordache, Matrix Man, Palm Strax, Fatima Yama, Marcel Detman, Lena Villikens, hanno fatto delle compilation. E finisce sempre, sono delle versioni, come ho detto, editate, un po' tagliuzzate, Open Me, tratto da Let's Ride EP per la Deckmantel, e siamo tornati a Modern Bliss. Questo pezzo si chiama Spiral. Un pezzo da un tempo che attinge da radici familiari del dub. E da una linea di basso così ritmata, groovy, d'altra parte il basso serve a quello. Proprio un disco che è un gran viaggione, questa beatitudine moderna, un album che è sostenuto da un ibrido di breakbeat, house, electro, però ci sono anche tocchi di trance, di psytrance, di progressive house, di dub, jungle. Un'altra recensione di un magazine online tedesco dice che quasi i beat hanno un gusto etnico, qualsiasi cosa voglia dire. E dice anche il suono delle 9 tracce dell'album. Tra ispirazione comunque dalle tradizioni che sono sempre stati i riferimenti principali della produzione di Rosa Terenzi. Dall'elettro viene il funk, dalla jungle viene l'atmosfera, dalla techno diciamo lo stato di euforia, e dalla house che appunto aggiunge un tocco di leggerezza. E questi sono più o meno gli ingredienti che Modern Bliss mischia insieme. Dove tutti questi stili, questi generi entrano in vibrazione l'uno con l'altro, con pesi diversi a seconda della durata delle tracce. E tipo una settimana dopo dell'EP per la Deck Mantle esce un altro EP, il Worldwide, per inaugurare anche in questo caso, prima release, viene chiamata a fare la madrina ovunque, la produzione della Bizarro Records, sempre di Melbourne, sempre appunto nell'ottica di sostegno, supporto reciproco in una comunità artistica molto vivace. Questo EP contiene due tracce con relativi remix e noi abbiamo mixato le due tracce. Questa è 50 Millionaire seguita dalla title track Worldwide. Facciamo una delle tracce che mi piace di più. Stiamo continuando a scorrere perché non abbiamo fatto in tempo a leggerla tutto, questo feature lunghissimo di Resident Advisor su Rosa Terenzi dell'anno scorso. Eravamo arrivati al punto in cui parlava del suo interesse per le pioniere della musica elettronica e quindi poi c'è un riferimento alla al suo nome d'arte e quindi alla dottoressa Fiorella Terenzi, che lei dice: no, non l'ho mai incontrata, ovviamente probabilmente lei non sa neanche che esisto, e probabilmente si stranirebbe dicendo: ma chi è sta matta australiana che mi ha rubato il nome? La seconda traccia Worldwide dell'EP omonimo dopo 50 Millionaire. E continuando a parlare di Fiorella Terenzi, dice: ha fatto un lavoro molto molto interessante, però nelle interviste, cioè, è brutto perché si capisce che la gente che la intervista non la prende davvero sul serio, sono un po' condiscendenti quando lei invece spiega queste cose incredibili, insomma, di essere un astrofisico e di aver tradotto in musica le onde radio con questo incredibile synth che lei ha costruito. E lei dice: sì, insomma, ci sono le persone che la liquidano facilmente solo perché lei è glamorous. poi insieme anche gli altri DJ Mix per varie pubblicazioni, radio e tante date, c'è appunto ogni tanto anche un remix. E ho scoperto questa artista, anche lei di Melbourne, che conoscevo, nome d'arte è Sui Jen. Questo pezzo si chiama Perfect Place, tratto da Losing Linda, un album a cui Pitchfork ha dato 8. E per cui appunto Rosa Terenzi ha fatto un remix che seguirà. But time doesn't stop, it won't give up, it goes on and on. Things you can't put off, do it now. Do it now. I got myself an idea to call someone. Shall we take a drive to chase the sun? The perfect place, quiet. The perfect place, gentle. You don't bring a thing. I got it. We're setting out for the perfect place. The perfect place. I just can't explain it. Ovviamente quando l'ho trovato questo pezzo, ho scaricato subito il disco, non ho avuto ancora tempo di ascoltarlo. Losing, virgola, Linda. Becky Freeman, in arte Sui Chen. È un concept album relativo, insomma, che parla di questa intelligenza artificiale che si chiama Linda. Ecco, come si può capire, è entrato il remix di Rosa Terenzi, che si chiama Rosa Terenzi Smoke Machine Mix. Già, anche questo remix ci piace moltissimo. Perfect place. veramente pezzone questo remix. E avendo pubblicato a marzo un EP per la Deckmantel, ovviamente partecipa nell'estate 2019 al Deckmantel Festival con due apparizioni, uno per Boiler Room e un altro per Red Light Radio Stage. E siccome 2020 never happened, tutto viene rimandato all'anno prossimo, parteciperà anche al Deckmantel Festival del 2021 dal 5 all'8 agosto, per chi volesse. Anche in questo caso a malincuore ho dovuto tagliare, perché già comunque fare delle trasmissioni su musica elettronica, club culture eccetera significa che la lunghezza delle tracce si raddoppia fondamentalmente, infatti sconfineremo paurosamente rispetto alla nostra durata. Siamo tornati a Modern Bliss, questa beatitudine moderna che ci ha regalato Rosa Terenzi con un altro pezzo dal titolo Total Eclipse, No of the Art. Un pezzo che per Resident Advisor ha degli aspetti acidi. E anche per Pitchfork c'è questo pezzo, un altro rimando al passato tra breakbeat e acid. Dice la colonna sonora perfetta per praticamente collassare beatamente nella chill out room. E abbiamo postato oggi un link al SoundCloud, in realtà il SoundCloud di Planet Euphoric, dove c'è questo compendio in 18 minuti dell'album annunciato, presentato il 25 febbraio. Circa un terzo della durata dell'album, che è sui 56 minuti. Una nota sull'artwork che vedo a firma di Jenny Grant. È una delle copertine più brutte della storia, più che altro una prova di estrema pigrizia, direi. E il testo annesso a questo post dell'etichetta dice: giocosa e coesa collezione, da post elettro a techno extraterrestre, progressive house, la piena realizzazione del suono di Rosa Terenzi. Modern Bliss ti invita in un universo elettronicamente etereo, un disco che riassume e condensa la miriade di suoni in costante evoluzione di Rosa Terenzi, in cui la lunga durata le permette di catturare un attimo preciso per trascendere le aspettative della dance music. Anche qui tutto interpretabile. L'ascoltatore può decidere se intraprendere un personale viaggio introspettivo attraverso i suoni o condividere questo stato di beatitudine con i propri amici. e unendosi anche a tutti gli sconosciuti che ballano in armonia sul piccolo pianeta euforico. E finisce questa molto gradevole Total Eclipse. E adesso con queste note molto familiari, insomma il riff più sfruttato della storia della musica dagli anni 80 in poi, ci annuncia l'ennesimo EP di Rosa Terenzi. Uscito a fine ottobre scorso, Metal Glow, uscito per la classe Vrex di Lucas Hunter, attenzione, alias di Luca Lusano, anche remixer di uno dei pezzi di Worldwide EP, un'etichetta di base a Hong Kong. E di questo EP Metal Glow, diciamo il fondatore dell'etichetta Classe Vrex ha anche remixato la title track, ma noi invece abbiamo preferito un altro remix dello stesso pezzo che stiamo ascoltando, perché insomma lo stile di questo Luca Lusano non ci piace molto, invece lo stile di Morgan Wright and RP ci piace molto e abbiamo anteposto il remix al pezzo originale. Per motivi tecnici. Anche questo remix è uno dei pezzi che mi è entrato più nella testa. E i motivi tecnici è che, sebbene non si potesse che fare un cambio brusco, veniva meglio mettendo prima il remix dell'originale Metal Glow. Poi evidentemente si sarà concentrata sul lavoro su Modern Bliss, anche se partecipa a fine dicembre con una traccia Three Stars Align in un EP compilation della Rand Music Recordings di Lipsia. Poi seguendo su Discogs e poi ricostruendo la cronologia, seguendo le uscite ufficiali ci si perde poi magari appunto delle delle partecipazioni con dei pezzi. In altre compilation, per esempio, la bella, languida, sognante Haze State, quindi stato di annebbiamento, contenuta nella compilation per l'8 marzo, fatta per l'International Women Day, quindi non le donne, proprio insomma tutte le donne, chiunque si identifichi come donna, pubblicata dalla Radiant Love, Rave Label Art and Performance Collective, che è questo gruppo di tedeschi che fanno una serata mensile in questo spazio che si chiama Her di Berlino, che è praticamente un'installazione, una console con broadcast radiofonico e ripresa video su web, e sembra appunto in un vano di un palazzo. E i proventi di questa compilation andavano in beneficenza appunto per realtà femminili e femministe. E siamo tornati a Modern Bliss. Questo pezzo si chiama Eternal Lust. Poi c'è stato anche un altro pezzo, il titolo Fusion, sempre da un tempo molto sognante, però una compilation del Post Bar, un bar e club di Helsinki, uscita il 20 marzo, una compilation dal titolo Long Distance Relationship, quindi relazione a distanza, in occasione del COVID-19 World Tour, in sostegno appunto al locale che, non potendo fare serate, perché mentre scrivevo mi appunto ho detto sì, in occasione di che, ovviamente del confinamento, cause eccetera eccetera, allora ho pensato questo tour mondiale del Covid-19, d'altra parte così. anche questo pezzo molto outsider house. E queste 8 tracce partono da primo pezzo da un tempo con dei tocchi new age, dub, poi si passa alla trance, alla psychedelic, electro, hip house, acid house. Questo pezzo qui, perché l'uso della drum machine, la famosa 303 della Roland. Un album in cui Rosa Terenzi ha sfoggiato tutto il risultato degli anni di sperimentazione, di affinamento, rifinitura di questi ritmi così extraterrestri per creare una musica dance molto, molto fresca, vivace, molto ricca di atmosfera. Appunto lei, appunto è la sensazione, il mood, l'atmosfera, quella che cerca. Dei generi che superano i limiti e insomma tutte le aspettative. E un'altra cosa interessante che abbiamo aggiunto all'ultimo momento, per cui sforeremo, è questa traccia di 8 minuti che abbiamo ridotto di un po' più della metà. Questo pezzo che si chiama Isolation Chamber a firma di un trio che si sono dati il nome di Quarantinas, ovvero Rosa Terenzi, Di Tiffany e Vani T, DJ di Belfast di base a Berlino, adesso non abbiamo detto, ma a un certo punto anche Kerry Campbell, ovvero Rosa Terenzi, ha messo un piede a Berlino, ma va. Vani T, che era stata una delle ospiti del suo programma radiofonico Designer Loops. Questa produzione collaborativa di questa traccia, appunto in situazione di confinamento, che è stata postata il 22 marzo, che è molto figa anche questa. E naturalmente anche lei ha contribuito con un DJ mix all'infinita produzione che c'è stata durante il lockdown. Abbiamo visto questo mix fatto per Maricas, vero si direbbe, insomma, Froce, collettivo e serata LGBT di Barcellona, e hanno contribuito con dei loro DJ mix anche Shanti Celeste, Di Tiffany, Orla. E così siamo arrivati all'uscita ufficiale del disco, che è stata il 17 aprile, dopo un paio di anteprime per Mix Mag, per DJ Mag. E da allora solo, tra virgolette, un suo remix sempre per un altro EP della Kalahari Oosterkalk. molto molto interessante, molto potente. E siamo arrivati alla chiusura dell'album e di questo speciale con un pezzo dal titolo molto simpatico, ma che a tradurlo viene un po' male. È un altro featuring con chi? Con la padrona di casa, con DJ Zosi, di Tiffany, Sophie Sweetland, saranno fischiate le orecchie anche lei stasera. Quest'ultima traccia, che è appunto l'unica che sembra pensata per il dance floor, forse per l'influenza di Tiffany, è interessante che arrivi così per ultima, quasi come bonus, dopo l'house così inebriante ma anche heady nel senso di mentale, cerebrale, di tutte le 8 tracce precedenti. Di questo pezzo Pop Matters dice che è un pezzo retro e futuristico allo stesso tempo, che potrebbe essere stata fatta negli anni 90 o tra qualche anno. Il titolo è My Reality Check Bounced. Allora, il reality check è quando appunto il momento in cui torni con i piedi per terra, che analizzi freddamente la tua situazione reale, insomma un po' quando ti risvegli, ecco. È reality check, il controllo di realtà. Però check è anche l'assegno, check, infatti è scritto check, non check. Ma in reality check bounced, cioè quando un assegno bounced, cioè rimbalza e torna indietro, significa che è un assegno scoperto e quindi un assegno a vuoto. Infatti anche la review di Resident Advisor dice che quest'album va bene, insomma anche questa situazione in cui il dance floor, la gente, la folla, i locali non ci sono più, e quindi ci sta che anche è un disco che ti balli o nella tua testa o dentro casa. Come insomma esperienza d'ascolto fluida, euforica, quindi anche casalinga. Però quest'ultimo pezzo, My Reality Check Bounced, esige quasi un ritorno all'atmosfera del club con questi ritmi jungle. E quindi un album che, nelle parole di Pop Matters, ha dei lampi di grandezza, perché Rosa Terenzi sa affrontare tanti stili alla volta senza sacrificare nessuna sfumatura. Quindi un lavoro che indica un artista capace di rompere le barriere, magari non con questo album, ma capace di poterle rompere in futuro, per cui un enorme potenziale e ci si aspettano grandi cose da lei. E finisce questo viaggione, questa moderna beatitudine, Rosa Terenzi. Ciao da Claudia Maitimau.